l'associazione culturale Connettive presenta Controessenze, la rubrica letteraria delle donne, mujeres, femme, women, mulieres, fowen, uniques, mujeres. The cauldron was a bubbling, the flesh was lean, and the women move forward like piranhas in a stream, and they spread themselves before me, an offering so sweet, and they beckoned, and they beckoned, come on, darling. Buonasera a tutte e a tutti. Stasera, come già abbiamo annunciato nella nostra ultima trasmissione dello scorso 11 febbraio, continueremo a leggere il documento sulla legge svedese che è stato scritto da Gunilla Ekberg, che è un'avvocata e esperta di tratta e prostituzione, la legge contro l'acquisto dei servizi sessuali da parte dei clienti della prostituzione, che è intesa a contrastare la tratta di esseri umani. Ma prima vorremmo riassumere brevemente i punti fondamentali che abbiamo letto e che abbiamo analizzato nella puntata precedente, che sono i seguenti. L'autrice sostiene innanzitutto che la persecuzione dei clienti comporta un calo nell'acquisto dei servizi sessuali e di conseguenza uno spostamento delle reti criminali in altri paesi che ritengono più redditizi per i loro commerci e meno soggetti a legislazioni antitratta e antiprostituzione. Questo è il primo punto. Secondo punto è che la prostituzione è un grande business in mano alle organizzazioni criminali e ai cosiddetti neoliberisti, cioè chi guadagna dall'industria della prostituzione, che per questo attuano degli strumenti attraverso i media, attraverso la cultura, in cui si banalizza e si socializzano, si banalizza la prostituzione e si socializzano i cittadini all'acquisto di servizi sessuali a pagamento solo per trarne profitto, vantaggio economico. Il terzo punto è che la legge non perseguita le donne che si trovano nella prostituzione, ma offre al contrario loro delle alternative lavorative e delle tutele sociali, contrastando di fatto in questo modo la tratta e il crimine organizzato. Ora vediamo la seconda parte di questo documento, in cui Gunilla Ekberg entra nel merito della legge, affronta gli aspetti legali e giurisdizionali, oltre a chiarire l'impatto che la legge ha avuto e continua ad avere sulle donne nella prostituzione in Svezia e sui clienti della prostituzione, oltre alle conseguenze che la legge ha, continua ad avere sui soldati svedesi delle forze di pace stanziate nei territori di guerra come in Kosovo, in Cambogia, in base proprio alla forza che la legge svedese assume al di fuori del territorio. Vediamo in che modo. La legge che proibisce l'acquisto di servizi sessuali. Il 1 gennaio del 1999 la legge svedese che proibisce l'acquisto di servizi sessuali entrò in vigore. Questa legge riconosce che è l'uomo che compra le donne o gli uomini per fini sessuali che dovrebbe essere criminalizzato e non le donne. La legge è gender neutrale ed è, come detto precedentemente, una parte fondamentale della strategia globale svedese per combattere la prostituzione e il traffico di esseri umani. L'iniziativa di criminalizzare i clienti venne in origine dal movimento delle donne svedesi. Le femministe hanno analizzato la posizione delle donne nella società, incluso il modo in cui gli uomini usano le donne e le ragazze per fini sessuali. In accordo con le altre femministe di tutto il mondo, conclusero che la prostituzione era un altro strumento patriarcale di oppressione, che ha effetti drammatici sulle donne e le ragazze che sono indotte e trascinate nella prostituzione, così come una forma estrema di violenza maschile controlla i diritti umani delle donne in quanto classe. E qua c'è una nota, c'è scritto Siveda Densmore 1973 a questo proposito, con il Ekberg aggiunge: quando un uomo dice ma non siete già libere, quello che intende dire è abbiamo stabilito che sia giusto che noi vi fottiamo. Cosa potreste volere di più? L'assunzione implicita dietro questo equivoco è che le donne sono semplicemente esseri sessuali, corpi e sessualità, macchine da sesso. Quindi la libertà per le donne può essere solo libertà sessuale. Fin dall'inizio del 1980 le femministe svedesi asserivano costantemente che gli uomini che acquistano donne prostitute avrebbero dovuto essere criminalizzati. Sachs 1912, Wellborn 1990. E che le donne e le ragazze che si trovano nella prostituzione si sarebbero dovute considerare delle vittime della violenza maschile e che hanno il diritto di essere supportate ad uscire dalla violenza e dalla prostituzione. Nel 1987 l'Organizzazione Nazionale per i Rifugi per Donne e Ragazze in Svezia, ROCS, fece di questa rivendicazione parte del piano di azione annuale, un piano che include una lista di richieste che le organizzazioni presentano alle donne parlamentari ogni anno. Grazie all'intenso lavoro di pressione politico, queste femministe ostinate e con l'aiuto delle politiche donne di tutti gli orientamenti, la legge fu portata in Parlamento, approvata con poca opposizione e alla fine entrò in vigore nel gennaio del 1999. Qui c'è un'altra nota: in quegli anni circa il 43% dei parlamentari erano donne, dopo le elezioni del 2002 il 45% dei membri del Parlamento ora è donna. La legge divenne parte dell'atto sulla violenza contro le donne, Kvinnofrid, che fu introdotta nel luglio del 1998, ufficio del governo svedese 2001. L'atto, che fu il risultato di due commissioni d'inchiesta, la Commissione sulla prostituzione 1995 e la Commissione sulla violenza contro le donne 1995 sempre, includeva molti emendamenti alle leggi sulla violenza maschile contro le donne, incluso un rafforzamento della legge contro la violenza sessuale. Inoltre fu dato il nome a un nuovo tipo di aggressione, una violenza generale all'integrità delle donne e una violenza generale all'integrità, attraverso la punizione di ripetuti casi di violenza contro le donne all'interno di relazioni intime. Ministro del Lavoro 1998. È importante notare che questa legislazione ha come bersaglio gli acquirenti delle persone prostituite. Le persone che si trovano nella prostituzione, le vittime della violenza maschile, non sono soggetti ad alcun tipo di ripercussione penale o di qualsiasi altro tipo. Il governo promise denaro e assistenza alle donne vittime della violenza maschile, incluso alle donne prostituite. Così lo Stato, in parte, è responsabile dell'assistenza alle donne che lasciano situazioni violente, inclusa la prostituzione, e deve fornire alle donne dei rifugi consulenze, formazione e inserimento lavorativo. La responsabilità diretta nel fornire servizi alle vittime della prostituzione e del traffico di esseri umani, in base alla legge, si estende alle municipalità, ministro per gli affari sociali 2001. La legge afferma quanto segue. Una persona che ha relazioni sessuali occasionali attraverso il pagamento sarà condannata, a meno che l'atto non sia già punito dal codice penale svedese, per acquisto di servizi sessuali e condannata a un massimo di 6 mesi di carcere. Il tentativo di acquistare servizi sessuali è punito in base al capitolo 23 del codice penale svedese. La violazione comprende tutte le forme di servizi sessuali, sia che vengano acquistati per strada, nei bordelli, nei cosiddetti salotti di massaggi, sia servizi di escort o in altre situazioni simili. Per stabilire la durata di una reclusione, la più lunga condanna che può essere comminata a qualcuno per ogni crimine individuale in Svezia è di 10 anni. La Corte Suprema ha stabilito la pena pecuniaria al massimo in 50 giorni. Comunque, per i casi in cui gli acquirenti hanno comprato servizi sessuali più di una volta, le corti hanno imposto multe superiori a 150 giorni. Paloma negra, paloma negra, ¿dónde, dónde andará? Ya no juegues con mi honra, parandera. Si tus caricias han de ser mías, de nadie más. Y aunque te amo con locura, ya no vuelvas. Paloma negra, eres la reja de un penar. Quiero ser libre, il denaro per le forze di polizia. Quando la legge fu emanata furono stanziati 7 milioni di SEC, circa $1 milione, dal governo per l'attuazione della legge. Il denaro fu stanziato in 4 distretti di polizia, incluse le 3 più grandi città. Nel 2003 il governo svedese garantì altri 30 milioni di SEC, circa $4,1 milioni, per 3 anni alla Direzione Nazionale di Polizia, in particolar modo da destinare alle misure per combattere la prostituzione e la tratta di esseri umani. Durante il primo anno della legge i tentativi della polizia erano diretti anche a uomini che acquistavano donne per strada. Però da quel momento gli obiettivi sono stati uomini che acquistano donne in bordelli, club porno, centri massaggi e agenzie di escort. Vediamo ora i numeri della prostituzione in Svezia. Nel 1999 è stato stimato che 125.000 uomini svedesi acquistavano circa 2.500 donne, una o più volte l'anno. Di queste donne circa 650 erano prostituite in strada. Dal 1999 ad oggi il numero delle donne coinvolte nella prostituzione di strada è diminuito almeno dal 30 al 50% e si è quasi fermato. È stato stimato che la quota di reclutamento di nuove donne nella prostituzione è diminuito da 2005 nel 1999, prima che la legge fosse introdotta, a non più di 1005 nel 2002. Questi sono dati del Ekman, direttore del gruppo antitrafficking presso l'autorità di polizia a Gothenburg, responsabile delle indagini sui crimini legati alla prostituzione e al traffico del 2004, e dati della scuola di lavoro sociale dell'Università di Gothenburg, 12 gennaio 2004, dati diciamo di Persons, direttore per il gruppo sulla prostituzione al servizio sociale di Malmo del 16 gennaio 2004. Il numero delle donne nella prostituzione di strada in Svezia oggi si aggira non più di 500. La Svezia ha 9 milioni di abitanti. Questo numero dovrebbe essere messo a confronto con il numero di donne coinvolte nella prostituzione di strada in Danimarca, con 4,5 milioni di abitanti. All'inizio del 1990 circa 2.000 donne erano nella prostituzione di strada danese, paragonata a un numero che va da 5.500 a 7.800 nel 2004. La Danimarca non ha una legge che proibisce l'acquisto di servizi sessuali. Non ci sono prove che la vendita di donne si sia spostata dalle strade a internet. L'industria globale della prostituzione e della pornografia è stata sempre veloce nel trarre vantaggi da tutte le nuove tecnologie che possono incrementare le loro attività e promuovere l'acquisto dei loro prodotti. Il progetto NetSex presso l'Università di Gothenburg, un progetto di ricerca che studia l'utilizzo di internet per fini sessuali, conclude il suo rapporto dicendo che il numero di donne svedesi che sono prostituite via internet rimane stabile intorno alle 80-100 donne, con le stesse donne che vengono pubblicate in molti siti differenti. Il rapporto conclude anche che l'uso di internet per fini prostituzionali è una conseguenza del rapido sviluppo della tecnologia di internet e non una conseguenza della legge svedese. Si vedano Manson, scuola di lavoro sociale all'Università di Gothenburg, 12 maggio 2004, Manson e Söderlind, 2004. La presenza di donne straniere nella prostituzione di strada è cessato e il numero di acquirenti è diminuito dal 70% all'80%. Gli uomini svedesi che comprano donne prostituite. Un uomo su 8 che abbia più di 18 anni in Svezia, circa il 13% degli uomini di 18 più anni, ha acquistato almeno una volta una persona per fini legati alla prostituzione in Svezia o in altri paesi. Il dato è Manson 2011, Istituto Nazionale di Salute Pubblica, Questi uomini rappresentano tutte le età e tutte le classi sociali. La maggior parte di loro sono o sono stati sposati o conviventi e spesso hanno anche dei figli. Gli uomini che hanno avuto diverse partner sessuali sono i più comuni, gli acquirenti più comuni di persone prostituite. Questo in effetti dissipa il mito del cliente solo, sessualmente poco attraente, con poche possibilità di scelta di sfogare la sua sessualità se non quella di acquistare donne prostituite. Inoltre, in uno studio intrapreso a Stoccolma nel 2000, le ricerche hanno scoperto che i ragazzi e i giovani uomini tra i 16 e i 25 anni il 10% di loro ha pagato per servizi sessuali, si veda l'Istituto Nazionale per la Salute Pubblica del 2000. Faithfulness distracts me from my ever-changing tastefulness. My mouth upon the richest tongues I run for this. Static at the same time by it all. ora leggeremo alcune informazioni sull'applicazione della legge in Svezia e sulla giurisdizione extraterritoriale, cioè al di fuori del territorio svedese. Il primo proposito della legge è quello di prevenire l'acquisto di servizi sessuali. Secondo la legge, la polizia svedese deve intervenire prima che il crimine venga commesso. Comunque l'arresto e la persecuzione dei clienti è ovviamente di pari importanza. Molti dei rapporti di polizia danno evidenza dei tentativi degli uomini di acquistare servizi sessuali. Viene considerato un tentativo quando un acquirente offre qualcosa come denaro, droga o un posto in cui stare a una persona prostituita, così come il fatto di pagare per i servizi sessuali, quindi la definizione è molto ampia. Secondo le ultime statistiche del Consiglio Nazionale per la Prevenzione del Crimine fornito da Leif Peterson, 734 uomini individualmente sono stati segnalati in base alla legge del gennaio 99 all'aprile del 2004, quindi 734. Dei 300 uomini che sono stati arrestati di questi per acquisto di servizi sessuali nel 2003, più di 200 di questi sono arrestati per acquisto di servizi sessuali durante il 2003 e più di 200 hanno avuto luogo nella capitale svedese. A Stoccolma, circa 140 sono considerati colpevoli di acquisto di servizi sessuali e si sono dichiarati colpevoli. Il numero delle condanne nel 2003 non sono ancora disponibili, in ogni caso ci si aspetta che nel 2003 ci si aspettava all'epoca di questi dati che nel 2003 ci fosse un sensibile incremento. Ad ogni modo è stato calcolato che l'uomo più anziano arrestato aveva 70 anni e il più giovane 16 e che l'età media degli acquirenti è di 44 anni. La polizia e i magistrati hanno applicato la legge con successo contro gli acquirenti che hanno catturato nei bordelli e nei casi legati alla tratta di esseri umani. In un caso di tratta che fu oggetto di indagine durante la seconda metà del 2002 e proseguito fino alla primavera del 2003, i protettori stavano gestendo i loro affari unicamente tramite internet e ricevevano circa 25.000 richieste via email su donne pubblicizzate sul loro sito da uomini in Svezia e altrove. I protettori tenevano registri di clienti con i nomi di più di 1.500 acquirenti. In 571 casi gli uomini furono sospettati di aver comprato servizi sessuali. Di questi sospettati, 40 uomini sono state perseguite per acquisto di servizi sessuali. In tutto, alla fine è stato loro imposto il pagamento di circa $53.000, quindi 379.000 SEK nella valuta svedese. Almeno altri 16 stanno aspettando di essere processati. Quindi l'effettiva applicazione della legge è determinata dalla mentalità della leadership con le forze di polizia locali, così come di quella dei singoli agenti di polizia. In Svezia, così come in altri paesi, le forze di polizia sono composte da uomini ed è un ambiente ovviamente conservatore, è un corpo di polizia a cui viene chiesto di rafforzare una legge che minaccia seriamente i valori tradizionali maschili. Perciò all'inizio i rappresentanti delle forze di polizia erano critici sulla legge e ritenevano che sarebbe stato difficile applicarla, per esempio in qualche caso in cui gli uomini erano stati arrestati per acquisto di servizi sessuali. Gli agenti di polizia coinvolti hanno deciso di inviare avvisi di garanzia ad un indirizzo a scelta del presunto reo anziché all'indirizzo del domicilio, presumibilmente per proteggere il presunto reo dal fatto che le consorti o le famiglie ne venissero a conoscenza. Per aumentare le competenze e conoscenze degli agenti di polizia sulla prostituzione e sulla tratta di esseri umani, quindi le istituzioni svedesi, così come la Divisione per l'Uguaglianza di Genere e le forze di polizia regionali e locali hanno ideato dei programmi di educazione per il personale su questi argomenti e questo intervento ha avuto notevoli e immediati effetti. L'iniziale atteggiamento critico nei confronti della capacità di applicazione della legge è cessato. A un anno dall'inizio del programma nel 2003 c'è stato un aumento del 300% degli arrestati, un incredibile risultato della migliore comprensione da parte degli agenti delle ragioni che stanno dietro la legge, della più profonda comprensione delle condizioni che rendono le donne vulnerabili e soggette a diventare vittime della prostituzione e della tratta di esseri umani e un miglioramento dei metodi di investigazione. You miss me like giurisdizione extraterritoriale. Tutte le leggi svedesi sono extraterritoriali. Questo significa che i cittadini svedesi possono essere accusati, perseguiti e considerati colpevoli secondo la legge svedese quando hanno commesso un crimine in un altro paese, sempre se questo paese ha una legislazione simile a quella svedese. È ben noto, ed è un problema in aumento, che gli uomini da molti paesi occidentali si spostano dai paesi più sviluppati verso luoghi in cui donne e bambini sono più vulnerabili a causa delle difficili condizioni di vita e dove la situazione sociale, politica ed economica delle donne e delle ragazze è seriamente compromessa. Nei paesi in cui la prostituzione è legalizzata e tollerata, l'idea che le donne siano oggetti per il piacere sessuale maschile e quindi possano essere vendute e comprate viene normalizzata. È quindi perfettamente accettabile che uomini vadano in bordelli per acquistare e sfruttare sessualmente le donne. Ovviamente questo ha un effetto su come tutte le donne e le ragazze vengono considerate dagli uomini in questi paesi. L'alto numero di turisti del sesso pro capite di conseguenza viene dall'Australia e dall'Olanda. Di contro, da quando la legge è entrata in vigore, non c'è stato un aumento del numero di svedesi che si reca in altri paesi per turismo sessuale. Vediamo l'applicazione alle forze di pace. Il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite è responsabile del mantenimento della pace internazionale e della sicurezza in base all'articolo 24 della Carta delle Nazioni Unite. Incluso in questo dovere c'è la capacità di intraprendere operazioni di pace. Tra il 1985 e il 1992 le Nazioni Unite hanno intrapreso più di 13 missioni di pace in differenti paesi del mondo. Molte di più sono state iniziate da quel momento, come l'operazione di pace in Somalia e negli anni recenti la missione delle Nazioni Unite a Timor Est e nel Kosovo. Nonostante lo scopo delle missioni di pace di alleviare la forza del conflitto e facilitare una soluzione pacifica, molte donne e ragazze nei paesi in cui queste truppe si sono stazionate sono state escluse da questo intento. Infatti, le forze di pace delle Nazioni Unite sono state direttamente coinvolte nella prostituzione e nella tratta di donne in molti luoghi del mondo. L'accesso a donne e ragazze su ordinazione è preso come un dono dagli uomini che servono le forze armate o che stanno combattendo in una guerra o in un conflitto armato. Dovunque ci sia una base militare, i protettori, i proprietari di locali di striptease, di nightclub e di bordelli vedono un mercato potenziale. Ad esempio, la presenza di 16.000 militari dell'Autorità Transnazionale delle Nazioni Unite in Cambogia, UNTAC, dal febbraio del 1992 al settembre del 1993 comportò un incremento da 6.000 a 20.000 donne e ragazze nella prostituzione a Phnom Penh. Il primo comandante, Yasushi Akashi, dell'UNTAC, spiegò quando fronteggiò le proteste sulla condotta degli uomini di pace che i ragazzi sono ragazzi. Suggerì inoltre che ragazzi impulsivi di 18 anni hanno il diritto di cacciare giovani esseri di bell'aspetto dell'altro sesso. Di seguito non fece nulla per far cessare il loro comportamento. I membri delle forze di pace in paesi come la Bosnia-Erzegovina, Timor Est, Slovenia, Cambogia, Mozambico e Kosovo hanno prostituito e trafficato donne e ragazze che erano membri delle popolazioni locali per le quali sono stati inviati al fine di proteggerle. Malgrado l'attenzione internazionale al problema, pochissime azioni o nessuna azione è stata intrapresa dalla leadership politica e militare di queste missioni. Infatti, l'attuale ministro danese per l'uguaglianza di genere, Henriette Kjær, si espresse nel 2003 contro la realizzazione di regole etiche che proibivano l'acquisto di servizi sessuali da parte delle truppe di pace danesi. La sua opinione si basava sulla convinzione che i soldati danesi si sarebbero comportati bene nelle basi estere. Al contrario delle forze di pace degli altri paesi, quelle svedesi sono soggette alla legge. Nel 2002 ufficiali dell'esercito stazionati nel battaglione della forza di polizia svedese in Kosovo furono accusati e considerati colpevoli di acquisto di servizi sessuali in Macedonia durante una licenza. I soldati visitavano i bordelli dove usavano sessualmente donne e poi timbravano l'interno coscia delle ragazze con i loro timbri ufficiali. I militari poi facevano foto delle donne e al loro ritorno confrontavano i loro trofei. Come risultato della loro condanna, non è stato più consentito loro di far parte di missioni di pace e sono stati congedati dall'esercito. A seguito della condanna, uno dei soldati è stato anche licenziato dal suo impiego civile. Secondo il generale di brigata Flemming Christensen, che fu l'ufficiale al comando del primo contingente delle truppe di pace svedesi in Kosovo, il modo migliore per fermare l'uso delle donne nella prostituzione da parte delle truppe di pace è che tutti i paesi coinvolti in missioni di pace diffondano regole etiche contro l'acquisto di servizi sessuali o che adottino leggi simili alla legge svedese. Lui suggerisce che la legge è lo strumento migliore per prevenire l'acquisto di servizi sessuali da parte dei soldati e che in effetti questo funge da deterrente. Durante il suo comando in Kosovo, le regole relative all'acquisto di servizi sessuali furono severamente rafforzate. Ogni soldato che usava donne per fini prostituzionali veniva immediatamente congedato e rimandato in Svezia per affrontare il procedimento in base alla legge svedese. You know the kind where the lightning strike, and I was hanging out with some of my artists. Oh, me with you, the night was low, the night went out, people cooling down to the break of dawn. Incense was burning, so I'm feeling. Oh, see, I picked my friends like I picked the fruit, and Candy told me that when I was only a youth, I don't walk around trying to be what I'm not. I don't waste my time trying to get what you got. Work it, please, and be. Can't please you, and that's why I do what I do. My soul flies free like willow tree. Do you believe me? And baby, don't wanna sit down with me. You don't wanna break my Bible tree. And if you don't wanna sit down with me, oh, hey, if you don't wanna sit down with me. Put me some bottom on this. Thank you. Hey. treat my friends like a pink and fruit. And Katie told me that when I was over you. Don't come out trying to be with them now. I don't waste time trying to break up these knees, cause I can't please you. And that's why you're to do my soul. When you can fuck somebody, scream. Ed eccoci giunte alla fine della trasmissione. Rivediamo brevemente i punti essenziali del testo su cui riteniamo importante soffermarci. Punto numero uno, la legge è il risultato dell'applicazione effettiva del concetto che è stato elaborato anni fa da alcune femministe svedesi nel passato, secondo cui la prostituzione, questo da un punto di vista culturale, è un'altra forma delle diverse forme di violenza di genere contro le donne, una forma estrema di violenza maschile che attraverso l'acquisto di donne nella prostituzione controlla le donne in quanto classe. Il secondo punto è che le pene oscillano da multe pecuniarie alla reclusione in carcere degli acquirenti della prostituzione che può arrivare ad un massimo di 10 anni. Il terzo punto è che il numero delle donne prostituite in strada in Svezia è attualmente di 500 donne e che ha subito un calo che va dal 30-40% negli anni successivi al ridosso dell'applicazione della legge. Il numero delle donne straniere coinvolte nella prostituzione di strada è cessato e in confronto per esempio la Danimarca, che non ha una legge contro la prostituzione, in Danimarca il numero delle donne prostituite solo nel 2004 è aumentata rispetto al 2003 di 2500 donne. Il punto numero 4 è che il numero delle donne attualmente prostitute su internet si aggira attorno alle 500, mentre il numero di acquirenti della prostituzione è diminuito dal 75 all'80%, quindi c'è stato un netto calo nel numero anche dei clienti. Secondo gli studi condotti sui clienti della prostituzione, questo è importante, gli uomini che ricorrono alla prostituzione hanno o hanno avuto partner o relazioni stabili o hanno anche mogli e figli. C'è da dire però che quelli che ricorrono maggiormente alla prostituzione sono quelli che hanno relazioni con diverse donne e non hanno una relazione stabile, e questo contrasta con il mito del cliente solo, sessualmente poco attraente, e che è costretto per questo a ricorrere ai servizi sessuali a pagamento. Il punto numero 6 è che l'aumento degli arresti di acquirenti della prostituzione dipende dal livello di sensibilità mostrato dalle forze di polizia responsabili degli arresti e dell'applicazione effettiva della legge, quindi è molto importante un'educazione delle forze dell'ordine rispetto ai punti fondamentali e rispetto anche alla legge svedese e al problema della prostituzione. Il punto numero 7 è che la legge svedese non può essere applicata in stati che non presentano una legislazione simile, come per esempio i paesi del sud-est asiatico, in cui c'è stato di fatto un aumento esponenziale del turismo sessuale occidentale negli ultimi 10 anni. Tuttavia però non c'è stato un aumento del numero degli svedesi che si recano in questi paesi. Si registra invece un aumento di olandesi e di australiani che vivono, lo ricordiamo, in paesi, cioè all'interno dei propri paesi, in cui vige una legislazione a favore della prostituzione o di regolamentazione o di legalizzazione della prostituzione. L'ultimo punto riguarda le forze militari che sono stanziate in paesi di guerra o che presentano una situazione economicamente e socialmente fragile. Questi paesi rappresentano un mercato florido per l'industria della prostituzione a livello globale, incluse per le forze di pace delle Nazioni Unite, che dovrebbero al contrario proteggere i cittadini dei territori che occupano. La trasmissione termina qui. Per qualsiasi informazione o se volete intervenire su questo argomento, scriveteci alla seguente email: connettive@gmail.com. Ripeto, connettive@gmail.com, di modo che nella prossima puntata potremo leggere i vostri commenti e gli eventuali punti di riflessione che ci vorrete fornire. Vi diamo appuntamento alla puntata del prossimo 8 aprile. Grazie a tutte e a tutti di essere stati con noi e buona serata. quanto ci provo ritorna in forma diversa e ingombra ogni centimetro di celebre in onda. Per quanto provo a non pensarci, passarci sopra come gli altri, dico imparerò dai e più grandi. E poi i problemi doppi, rimbocchi, maniche e lotti, occhi che luccicano, a volti dei fumi farlocchi, traguardi che fissi e se passi rilassi, nervi rimasti sotto incastri dei disastri che causasti. Luce spenta, candela accesa ed ogni goccia segna che passa il tempo e non mi sembro sveglia. Fogli sparsi tra scarabocchi, testi e nastri, cerco la mano perché la mia testa possa appoggiarsi. Ogni sospiro profondo un problema che affronto, appanno vetri sopra i quali disegno il mio mondo. Minuti intimi, sporadici, pensieri complici, accuso dei sintomi di postumi, catastrofi. Follow me. Muscoli deboli, più sigarette poco spenti in posa ceneri. Svuotali. Ed è un continuo risveglio che precede la mia notte. Questa notte non si dorme, il mondo mi appare deforme. Scrivo parole senza senso e se penso che fuori casa un mondo immenso al quale fare affidamento, mi pento e quante volte mi addormento sperando di avere risposta pronta al mio risveglio. Che poi mi perdi in passati che spolvero, tornano. È un nodo alla gola più stretto, non puoi scioglierlo, puoi ricordarla, ma questa merda è una cartella. Per quanto calca la mia penna, il tempo non cancella. Perché fa male, ma sono attimi. Comunque vadano le cose puoi sorriderci, se non uccide ti rinforza, il male si ricorda ed ogni lacrima è una svolta. Perché fa male ma sono attimi, comunque vadano le cose puoi sorriderci, se non uccide ti rinforza, il male si ricorda ed ogni lacrima è una svolta. A volte una lancetta ferma che impazzisce, dice che stai da schifo ma tutto il resto ti sorride. Note che non riesco a scrivere, spartiti da rifare, pause da decidere, chiavi di violino per entrare sai. A volte il mio cervello mi sta stretto, voglio il perfetto di ogni concetto che ho espresso. A volte parto per dei viaggi assurdi, circuiti furbi, mi perdo, non riesco a ricondurmi. A volte il cuore gira mille, batte tra le sillabe di notti che non riesco a vivere. A volte mi sento l'opposto, è un posto che già conosco. Le loro paillette suonano il mio jeans rotto. Sono un artista, ho il cuore d'artista. Troppa gente che mi ferma e dice ti ho già vista. Sono poco fisionomista, si sa, masochista. Sto bene oggi solo in fissa. Qualcuno mi ha strappato il cuore, resto qui a sanguinare. Fa un male cane ma continuo a respirare. Vorrei sapere come passano i tuoi giorni, se lo fai sempre o sogni solo se dormi. Ne vale, giuro, ne vale la pena di vivere, ma a volte perdo il mio controllo ed è impossibile. Figlia di un cielo che a volte di me ha vergogna, ed ogni lacrima versata ha creato una donna. Perché fa male, ma sono attimi, comunque vadano le cose puoi sorriderci, se non uccide ti rinforza, il male si ricorda, ed ogni lacrima è una svolta.